Figlio mio, se accoglierai le mie parole e conserverai con te i miei precetti, volgendo alla sapienza il tuo orecchio, inclinerai il tuo cuore all'intelligenza. Anzi, se farai appello all'acutezza, all'intelligenza, rivolgendo il tuo grido, se la ricercherai come l'argento e come un tesoro l'andrai scovando, allora scoprirai il timore del Signore e la scienza di Dio tu troverai. Veramente il Signore dona sapienza, dalla sua bocca viene scienza e intelligenza. Egli riserva ai retti l'assistenza, scudo per chi cammina integramente. Proteggendo le vie della giustizia, custodisce il cammino dei suoi amici. Allora comprenderai la giustizia e il diritto, l'equità ed ogni via della felicità. Quando sarà entrata la sapienza nel tuo cuore e la scienza avrà deliziato la tua anima, la prudenza veglierà su te e l'assennatezza ti custodirà, strappandoti dalla via del male, dall'uomo, dalle idee perverse, da quelli che abbandonano le vie diritte per mettersi nelle vie oscure, che si dilettano a fare il male, esultano nelle perversità del male, deviano i propri sentieri, sviano nei loro cammini. Strappandoti dalla donna altrui, dalla straniera che sa adoperare parole mellifue, che ha lasciato il compagno della sua giovinezza e ha dimenticato il patto del suo Dio, veramente la sua casa va verso la morte, verso le ombre, i suoi sentieri. Chi si incammina verso di lei non ritorna indietro e non raggiunge i sentieri della vita. Così camminerai per la via dei buoni e i sentieri dei giusti tu custodirai. Sì, i retti dimoreranno nel paese, i puri vi saranno lasciati, gli empi invece saranno cancellati, i fedifraghi saranno sradicati.